and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Allora, oggi parliamo dei bambini nati nel 2011. Sono ancora pochi, sì, probabilmente. Ce n'è, no? Però, in Italia qualcuno ci sarà. Non sono ancora tanti, però sono i primi, questi bambini, che avranno già un destino scritto. Praticamente sappiamo già tutto quello che gli succederà da qui. Lascia alla stare tomba. Gli oroscopi, che la tomba, lascia stare. Ma cos'è sta parlo roba? Di scienza, K, numeri. Una ricerca statistico-matematica dell'Allianz Assicurazione. Che tu hai capito, soprattutto. Sì, certo, sì, è molto chiaro sui giornali. Questa Allianz Assicurazione ha disegnato l'identikit dei nati nel 2011. Ma sti assicuratori sono tremendi. Cioè, sono già lì a studiare i futuri polli da spennare, certo. Capito? Ma aspettate un attimo, no? Sono appena nati, anzi molti devono ancora nascere. Loro si portano avanti col lavoro, come si dice qui in Lombardia. I dati sono interessanti. Innanzitutto l'aspettativa di vita sarà di 81 anni in media. 84 per le donne, 78 per gli uomini. E quindi facendo i calcoli ci sarà una moria di quelli nati nel 2011, nel 2095 per le donne e nel 2089 per gli uomini. Tutti insieme. Andranno anche tutti in pensione a 70 anni nel 2081. Ottimisticamente. Infatti secondo me questo dato l'hanno messo su pressione di qualche ministero. Poi sembra che questi bambini saranno in buona parte sovrappeso, circa metà dei maschi, il 40% delle femmine, ma quello è un vecchio problema, quindi anche senza questo studio. Sì, e poi immaginare. Qui all'asilo lo affrontano brillantemente con la dieta a base di finocchi cotti, però non si ingrassa. In altri asili invece fanno così cibi precotti, cibi pieni di grassi, zuccheri, e poi i bambini fanno poca ginnastica, bisogna correre, sudare, andare in bici, giocare a pallone, a basket, a pallavolo, invece stanno davanti ma al computer a ingrassare. Ma cosa dici? Lo dice la ricerca, ma non lo dico io. Ma tu invece cosa fai con la pancia che ti trovi? Sei il primo anni. Che devi star zitto. Vabbè, infatti cambiamo argomento e dico che il 33% dei bambini nati nel 2011 si laureerà. E poi? E poi cosa? Cosa fanno dopo la laurea? Ecco, questo devo dire che la ricerca dell'Allianz non lo dice. Lavorano per l'Allianz? Non lo so. Non dice che tipo di lavoro faranno. Cioè passano direttamente dalla laurea alla pensione. Quindi i casi sono due. O il periodo tra la laurea e la pensione è troppo difficile da immaginare, quindi hanno rinunciato a pensarci, oppure vuol dire che uno si laureerà in tempo per andare in pensione, che quindi i corsi di laurea dureranno, non so, quarantina d'anni. E poi subito in pensione. Eh sì, cioè, ti laurei, dottore, in pensione. Pensione. È un'idea un po' da pentapartito, però. Ma c'ha ragione. Partito. Ma cosa dici? Cosa vai a tirare fuori il pentapartito? No, hai ragione. Il problema è che mi arrivano delle sventagliate di ventesimo secolo, a volte è difficile resistere, quindi è così. Comunque, Drago, scusa, resta il fatto che a noi di tutti sti dati di quelli nati nel 2011 non ce ne frega niente, perché sti bambini ci sopravviveranno abbondantemente. Vabbè, lo so. Quindi di sapere come si starà al mondo quando noi saremo già sottoterra, francamente, Drago, non mi interessa un accidente. Forse. Anzi, è un argomento che mi mette anche un po' di inquietudine, no? Capisci? Viene la paranoia, no? Ti sale l'ansia, sta la tomba, ecco, no? Stessa cosa a me. Il buco. Hai ragione. In pensione nel 2081, ma sì, ti rendi conto? Così. Non ci appartiene più, Drago, quella data, cioè siamo già troppo vecchi. Nel 2081, Drago, festeggeranno il centenario del tempo delle ma mele. Ma come Sophie Marceau, quindi Dream sarà morta anche lei. My reality. The only... No, noi non ci saremo mica. Non ci saremo. No. Come i nomadi. Ma no, dai, come i nomadi no, però, nomadi. Come i Dick Dick, ma noi non ci saremo dei nomadi, non è dei Dick Dick. I Dick Dick avevano fatto Senza Luce, avevano fatto quell'altra, come si chiama? Sognando la California, California. Tutte cover. Io però non ho capito come funzionano i filtri antispam. Come funzionano? Cioè, le azioni oppure... Ma no, ma perché non ricevo un sacco di messaggi proprio perché il filtro antispam fa troppo il suo dovere. Lo so, capito? Intercetta e elimina anche messaggi che vorrei ricevere. Sì, però tu vai a vedere sempre nella cartella della posta indesiderata. Vedi subito se c'è qualcuno che ti ha scritto, ma che tu conosci, le puoi salvare. Lo so, capito, ma a volte i messaggi vengono eliminati senza passare attraverso la cartella dell'indesiderata, capito? E specie se c'è un allegato. Allora cambia le impostazioni, ma che ne so, sì, ma K, sono cose, insomma. Ma c'è un'altra cosa che mi inquieta, però. Cioè? Scusa, se io ho questi problemi con il filtro anti-spam, immagino che ce l'abbiano anche degli altri, no? Forse sì. E quindi mi chiedo, gli altri si fanno i miei stessi scrupoli o se ne fregano e si comportano di conseguenza? Quello non puoi saperlo. Cioè, quindi alla fine qualcuno li riceve i miei messaggi. Cioè, c'è qualcuno che si scambia dei messaggi che li legge? Perché, scusa, se funziona per tutti così è tutto indesiderato. Vuol dire, non c'è comunicazione indesiderata. Soprattutto se mandi un allegato, poi... Cioè, tu pensa, mandi la fattura, non so, l'estratto conto, La dichiarazione dei redditi, tutte cose importanti, o comunque, non so, una lettera da mandi un allegato d'amore. Tu mandi un allegato d'amore e il filtro anti-spam te lo distrugge? Ti mando un allegato 3 kilobyte d'amore, come indesiderato l'hai cestinato, l'hai anche svuotato. Ho visto le menti migliori della mia generazione impazzire per i problemi con la mail. Gridare, urlare, battere i pugni sullo schermo, picchiare i piedi per terra. O viceversa, picchiare i pugni sullo schermo e battere i piedi per terra. Staccare spine, staccare bestemmie e poi riavviare i computer alla cazzo. Il tutto per i temibili e inevitabili problemi con la mail. Però K, adesso i tempi sono cambiati e ad avere problemi con la mail siamo giusto noi, guarda, quelli della nostra generazione, K. I nativi digitali ormai la mail non sanno nemmeno più che cos'è. Cos'è i nativi digitali? I nativi digitali, no, i nativi nel senso che sono nati quando già c'era internet. Come la mail fanno proprio... devo mandare l'allegato d'amore, come fanno? Usano Facebook, usano Skype, o l'iPad, lo smartphone, insomma usano l'email solamente quelli della nostra età. È cosa da preistoria di internet. Però sti nativi digitali, ci sforziamo e non ci arriveremo mai al loro livello. No, guarda, non è presto, il mondo sarà diviso proprio tra nativi digitali e gente come noi, quelli che così tenderanno a tenere le cose come stanno, lo status quo, capito? Sì, i vecchi. Comunque io sono vecchio ma pronto alla battaglia. Noi siamo la prima generazione, K, che ne sa meno delle generazioni più giovani. Abbiamo niente da trasmettere ai nostri figli, anzi, sono loro che al massimo insegnano a noi, capito? Loro su internet trovano tutto. Sì. E noi come insegnanti cosa stiamo lì a fare? Internet. Dirigiamo il traffico. Ma internet non è mica la verità, internet. Bravo, e vallo a spiegare a un nativo digitale. Io mi fido di più di quello che ho studiato alla scuola svizzera che di quello che trovo su Wikipedia. Sì, però adesso a scuola vanno con l'iPad e usano Wikipedia per fare le ricerche, quindi i libri stanno scomparendo, meno alberi abbattuti, meno spese, il futuro della scuola è digitale e io e te tra poco saremo come quei vecchi, ti ricordi quelli che ci raccontavano di aver visto la prima automobile nel secolo scorso? Ragazzo mio, ai miei tempi si studiava sui libri, sì signore! Erano tipo dei parallelepipedi di carta con su stampate le cose da studiare, sì signore! E non c'erano mica i link, no signore! Le parole erano quelle e quelle rimanevano, era dura ragazzo mio, durissima! Ma eccomi qua, sano e salvo, vivo e Papà, papà, perché sei lì fermo impalato? Ho l'ictus. Papà? L'ictus? Che cos'è? Date i vostri nanana nanana alternativi a chiedoasilo@radio24.it.